piatto, collega. Hola, va, va. Radale, Lecce, dai, Lecce, Puglia. Campa Giuseppe, Bresciancito, cordialità, la stazione Gianni Doppio Rum, QTH Sardegna, città di Sassari, che ti super saluta, avanti. Buongiorno, vivo Sassari, grazie Lerina, mi stai dando una bombata, mi arriva una bombata qui in Puglia. Cabagà, vai, la propagazione fa questi effetti, comunque, la radio è buona. Cosa? Dico, la radio è buona? Sì, sì, confermo, sta arrivando benissimo. E collega, sono in compagnia di altri amici, qua c'è una rotta locale, se li faccio venire avanti a uno a uno, avanti Natali per far girare. Riprende Natali 91 dalla città di Sassari, nord della Sardegna, per l'amico di Lecce. Attento l'amico di Lecce, ascolti la Alfa 1 con l'operatore Natalino, cambia. Ascolto molto bene, 9:20, arrivando 9:20, ascolto benissimo. E anch'io qua ti ascolto bene, arriva una schioppettata qua nel nord della Sardegna, dai, l'amico di Lecce. Mi fai girare, fai venire avanti gli altri amici se li ascolta l'amico di Lecce, dai. Salutoni comunque 73, ma termino al 1 da Sassari K. Avanti, vivo, vivo, comunque c'è. Niente, chi c'è a tre ruota? Per Paolo Vera 1, avanti Vera 1. K, positivo, non so se a me mi ascolta, buonasera, mi ha ascoltato l'amico di Lecce. Per Paolo Vera 1 da questa parte, non mi serve di Sassari, avanti. Vuol dire, Pier Paolo, gli ascolti, appunto sarà, taglio 2 a 5 qui a Lecce, dai, gli ascolti, ascolto una... Niente, fondo scala. Vedi di Verona. Papa, positivo, vai, anche tu qua arrivi bene, nelle mie coordinate arrivi bene, dai, avanti Gianni. Ehi, c'è anche Antonio, facciamo venire avanti Antonio, vediamo se ascolta anche a lui. Antonio, lo riprendi tu. Buonasera, Antonio Momolo da Sassari, l'amico di Lecce, 7351, non so se mi ascolti. Sì, vuol dire che ti ascolto Antonio, ti ascolto però rispetto agli altri molto molto più basso, girato di segnale, però ti ascolto un pochino non benissimo, ora ti sento. Coppia da... Io lo sento un Santiago di 5, comunque ho capito che mi ha copiato. Abbastanza perone, comunque per la distanza che c'è, ragazzi, carino. Cappa, e a me con che segnale mi ascolti, l'amico di lei? Mi sta arrivando a 9, eh? 9, comunque Giuseppe, dai, Giuseppe, la, il mio nome è di battesimo. 109, eh? Papà Giuseppe, tu invece c'hai nel questi qui da 7 a 8 a 9, ma si movimento? No, sono stazione fissa, sono fisso. E capo, probabilmente anche in effetto la propagazione. Cappa, avanti Piero. Cappa, a me cosa mi dai lì di Santiago, cosa arrivo? Sì, tanto, buonasera. Buonasera, per Paolo uno, sempre. Come ti arrivo lì di Santiago? Dal segno. Sassari, Sandro, non ho sbagliato. Buonasera Sandro, doppio rullo a questa parte, con le 751 da parte mia. C'è una propagazione fantastica, c'è una propagazione fantastica. Parlateci di Lecce, com'è la frequenza lì? Ce ne sono tanti decibili. Negativo, e qua più o meno è andata cioè sono, non è che muore una volta gente nella mia zona, eh? Una volta c'erano parecchie 90, 80, c'era parecchie persone vuota, ultimamente no, siamo rimasti. E qua era 10 anni che era ferma la frequenza, poi l'abbiamo ripristinata e piano piano stanno arrivando anche i nuovi, si sta riunendo un po' di gente, non siamo tantissimi, però la cosa sta andando avanti già da 7 anni e siamo contenti di questo. Avanti Breco. Quelli che sembrano innocui sono più stabili del solito. Aspetta però, dai. bocca a sinistra c'è sul muro, attenzione, calma. Buonasera, strutture circolari a tutti, la stazione Roma Lunga, controllante dalla città di Sassari, nord Sardegna, calma. Positivo, positivo, a sinistra, lato buono, ok, dai, ricevuto. Lui è esaginato, non sa stare, sembra che abbia il peperoncino. Matteo! Dai! Dai, date un mese dentro! Meglio di peggio! No? Attento Matteo, ascolti Gianni doppio non da Sassari. Matteo ti stanno chiamando, Gianni ti fa chiamata, rispondi. Ciao Matteo, non so se tu mi ascolti, 7351, ho sentito che ti chiamavano e ho voluto salutarti. Dalla città di Sassari, Gianni operatore doppio rumore. Perché se c'è molto il guerra in esito dovuto alla propagazione. Rilanciamoci un po' anche a Paolo, poi farà girare per Antonio, avanti per Paolo. No, non riesco a tirare il fuori, invece, al contrario. Passo da un'altra parte, li sento bene qua, non riesco a tirare il fuori. A te ma la monta da loro c'è stavo parlando, ciao a tutti. Attenzione, mon ami, si utilizza la salute. San Romeo della Vita e Sassari. Avevamo gli amici qui sulla Sardegna. Yeah, sure. più forte, ricorda, se più in alto si piove più bene, no? È normale quello. Fissa, fissa. tutto, noi stavamo parlando quando l'abbiamo piazzata a Pisa, quando l'abbiamo piazzata a quattro, tutti i continenti stavamo parlando. Ma io me ne ritorno lì che è una bella piazza, Trieste non so che cosa. E allora sicuramente la gente di fuori. Ah, Viviane, una scoppettata, Blanco, fortissimi, 9.30 così, tutti e due erano ben forti. E ha detto, mia moglie vuole che faccia pace, come faccio a guardare un cognato così che mi ha diseredato, che non vuole nemmeno, che eravamo in società e che adesso mi ha allontanato, non mi vuole più. Attenzione Giuseppe, ci siete ancora? Sì, sì, ci sono, ti sto ascoltando adesso, ti ascolto 9.30 qua. Quanto? 9.30 mi sta arrivando. Appaga. Va bene allora, ma anche tu hai chiarificato molto la voce perché i disturbi del QRM si sono abbassati e la tua voce è come una telefonata. Grazie carina, con un 40 canali sto andando, con una portante grafica, questo è 40 canali, con una linea di velocità di 4. Va. Devi cominciare il tuo banco, cara, si sta sorrendo, ecco, e manto va 5, e a fianco vai con io, vai, da 100 watt, e CT è 747. 747 della Chieso? No, 747 è la segretaria della CT. Una transistor allora. No, non ha capito ci voglio dire, Matteo, dici che è buono, che è buono, non ha capito che non è che è di qui, eh? Charlie. Via. Ma io, la dico lì, sicuramente l'ha piato qua della mia città di Nazare, e quindi dico, mi dico, non fa capo spada, Charlie. Però non è che è stato in male, se dico, sta stato in male, Matteo, dimmi, ma sta via da male? Giuseppe, ehi, ma non c'è niente qua, eh? Ecco, mi ascolti con questo. buono, vedi. Attento Giuseppe, come mi ascolti con questo apparecchio? Guarda, 1, 2, 3, prova. Prova. Matteo, segnale tuo. Non mi ascolta tanto col bagno. Allora. Ora. Sei sicuro? Perché? Se ti dico di sì, esci. Ti dico e ci accusano. Tante volte quando ci dico di te, ma insomma. Oh, Angelo, attenzione, Lecce, se mi ascolti, capo. Comunque salutoni, sei falso. Giuseppe da Lecce, mi ascolti? Sacco del QRM, Giada. No, no, io ti ascolto benone, forse, ti ascolto bene. Giuseppe, rispondi a me. Mi ascolti qua con questo apparecchio? Guarda che sto provando un apparecchio nuovo. Leo, ma se senti qua, qua il capito l'angelo, ma che buono, che buono, ma che capito, lascia le mie 5 poi. Attenzione, Lecce, Lecce, rispondete, grazie. Positivo, avanti, andiamo a Lecce. Capa, dai, stavo provando un nuovo apparecchio, volevo sapere bene come arrivavo lì, dai, se va bene o no. Bene o no. Sì, sì, no, mi sta arrivando 9.05, però ci sono i momenti che ti ascolto e non ti ascolto. Vai bene la propagazione. Capa, capa, infatti sta sparendo un po', sento che sono dei rumori, Capa, la radio com'è? Mi interessa anche quello, dai, questo è il Magnum, il nuovo Magnum 980, dai. Ah, è Magnum 980 e qual è quello da 174? Cappa, sì, io lo tengo presente perché l'ho visto sulla Magic Forno, dai. Ho avuto l'S9 e adesso c'è il 980, è il nuovo modello. Sì, sì, lo vedevo, sì. No, è meraviglioso quello, è 174, sì, l'avevo visto sulla consiglio. Un bel apparato, c'è il display azzurro, mi sembra, no? Poi quando va in trasmissione diventa rosso. C'è un casino, ma non ti sento bene. C'è troppo bailame. E non ti ascolto come devo. Allora, ti saluto. E ti auguro una buona serata. Avanti Antonio. Succede spesso. Vabbè, a me non mi era mai successo, mi è successo per la prima volta questa volta qua, ma non mi era mai successo. A te, sapete. Qui ogni tanto già qualche scarichetta al piede già la, dipende dalle condizioni atmosferiche. Dai, sono tagliato le fama alla schiena, sono culo la tripa. Mi sta ascoltando, Lucava. Forse ti riaria. E come mai? Che sei chi un'altra volta a prendere con culo? Era Porto Torres, Mancarelle, devo aver preso freddo perché stavo lavorando, capito? Ieri c'ero davanti al forno, facendo pizza, e sto rimanendo in una pulcritona, era freddo. Dai, dai, riprendete, già sono qua in ascolto. Però è strano, noi che siamo di sassi andiamo a Porto Torres, che il Porto Torres va a sassi. Forse per cambiare visione di faccia il coso, anche se no, per esempio il martedì si faccia. Non c'è tra nulla e lavoro, sto parlando di feste, Antu, cosa avete tra l'altro avanti, non li mancarebbe. Ma io non vedo come ti arrivo, Teo. Mettono la propagazione, ci attendere. Di nuovo la propagation. Quale senti meglio? tutti e due, ma sì, comunque li sento bene, sia con una che con l'altro, ti ascolto appena. Cioè, mi segnala più di radio, ti ascolto appena. La differenza è che questo qua è solo l'apparato, esatto, l'altro era aiutato, questo qui è solo l'apparato. Se veniva solo l'apparato mi sta arrivando 900. Allora gli va bella. Avanti tanto. La radio com'è, Giuseppe? La radio come l'ascolti, chiara? Sì, invece quell'altro faccia via MSM, sono forse una distanzina. Va bene. C'è stato, sono stati dei rumori, non ho capito bene ciò che ha detto. Giuseppe, ti chiedevo, la radio è chiara? Chiara. Sì, confermo. La radio è chiara, è bella limpida, è pulita. È chiara, Antu. Ma deve essere anche dall'altra volta, anche quando c'è di queste nombre. Lontano sono micidiali, sono. Non so il perché. Però rendono un bene. E allora se passi qua da laterale con l'FM? Proviamo a passare l'FM, Giuseppe, c'è l'FM? Giuseppe. E me li apparati su. Tu conosci la nostra mia lavoro. Ma quella non è il tempo di farsi questi. Come la ce l'ha? Ma se c'è un'altra modulazione anche. Che mi ha rifatto bene. Devo essere che la radio era per la squilla. Abbastanza buona, vai, Matteo, con le vete. Problema, cavolera, no? Ora abbiamo un magno maestro, e io più mi ha parlato di vedere, un magno maestro. Torniamo a vedere. siamo tutti quanti qua. Ci siamo ritornati qua perché Giuseppe ci ha comunicato che c'è uno dei vostri che non c'ha l'FM, dai, aggiorniamoci ragazzi. L'apparecchio che usavo poco fa è un apparecchio degli anni 80, questo qua è del 2010, è proprio uscito da pochissimo questo modello qua, l'altro che usavo è degli anni 80 e va veramente bene, è il Saturn Echo, è un apparecchio favoloso, per me è la mia chicca preferita della stazione. Quello da base, dai, quello da base, quello grande da base. Sì, allora 23:30, no? Parla 23, con il 21 dal centro, no? Giuseppe, sta riaumentando i rumori della propagazione, dai. Io ripasso sull'altro apparecchio. Preferisco perché mi corico e ho il microfono che si allunga, quindi mi viene meglio da parlare, e mi sdraio. Cava cava. Avanti Antonio. Una telefonata, c'è stato un rumorino senza nulla. Liscio. sì, è vero, aumenta sì. Aumenta, ecco. Per sentirsi un po' attamato che volevo andare a farsi un giro all'Ancia sta Porto Torre, se non sono riuscito a trovare un parcheggio, ma sono dovuto tornare indietro. Sono stato più di mezz'ora cercando un parcheggio. Tutto bene, ci sono certe macchine che ci hanno inventato anche parcheggi, si sono messi nella pista dello spartitraffico, di qui, una cosa allucinante, in mezzo strada, una macchina fianco all'altra, seconda fila, tutto pieno, pieno zeppo, perché c'è la sagra del pesce oggi. Faceva il pesce, ci sono distribuiva, ci sono i corrottori, e a volte scendevamo anche noi. Distribuiva il pesce con tutto gratuitamente. Adesso pure lì c'è lo scopo di lucro. Devi fare la fila come tempo di guerra per mangiare, no? E poi devi pagare 3 euro per darla. I calamari non so se ci sono, la farina magari sì, ma i calamari finisco pochi. E un bicchiere di vino, 3 euro. Ascoltare gli amici. La porto per vista, purtroppo qua c'è un pezzo, un guerrerme totale. Chiamata generale per tutta l'Italia, aria nord Sardegna, fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Vi accogliamo a braccia aperte, avanti Italia. Bella chiamata. Attenzione. anche glielo dico, Jung Germany, Jung Germany, allora io avanti Italy, Italy. È passato stasera, ragazzi, se c'è quella passata, va a far culo, si ha preso qualcuno. Ecco, cambi la via. Un attimino, c'è un po' di normale, ci serve. Uno che può essere anche una chiamata urgente, qualsiasi cosa. Ma non penso che fosse una chiamata urgente, comunque soltanto qualche cosa, la verità è che se ti chiede un attimino uno si ferma e basta, non è che invece, ma proprio si fermava, che ne so, due o tre secondi e torna, cazzo di aria, non lo compete, lo sai, no? C'è molto egoismo allo Stato, perché a uno anche per una vacazione si potrebbe passare un microfono con l'altro come si fa la lotta normale e provare con l'amico, poi girare anche tra di noi, certo. E chiedere come tutto quanto, no, non chiedono prezzi. Ciao, ciao.